Underground Solution. Altro giorno, beh, apro gli occhi presto, mi preparo un altro viaggio di 24 ore e metto in pace animo, tolgo tutta quanta la forza, lascio dentro la mia stanza ciò che è buono e chiudo a chiave la mia porta e mi riverso dentro il mondo vero e finto, non importa tanto tutto, questo è come io lo definisco. Osservo tutto ciò che mi circonda, la gente che mi sta vicino e tutta quella che mi snobba. Sono pronto a venirti incontro, uomo, ma se mi tradisci sappi che io non perdono. Sono in credito con te, tu sei in debito con me, quando avrò bisogno ti verrò a cercare perché sto dalla parte del giusto, il male non lo concepisco, affronto anche l'inferno sapendo che sono a rischio, ci metto la mia forza che la sento sulle dita, sono pronto ad affrontarti mondo, a costo della vita, anche quando penso che sia dura, ci metto tutta quella grinda, che oh, e non dargli il tempo di una scusa, non mollare mai uomo, non mollare mai, anche quando penso che sia dura, ci metto tutta quella grinda, che oh, e non dargli il tempo di una scusa, non mollare mai uomo, non mollare. Sembra che il giorno l'abbia contro, vivo grazie scamotage, urlo ma chi attorno sembra sordo, conservo il fiato per le salite più impervia, come se la merda che vivo sia roba da niente. Il cuore scoppia, perché non ho pretese, di lavoro non c'è ma ci sono le spese del mese, e poi sti macchinoni che attraggono le fighe, ci penso quando spendi pochi soldi per le cicche. Cazzo, io chiedo solo di star bene, ma per come siamo messi su qualcuno non permette, qua giù si promette, vengono sogni e scelte, per passare i colloqui serve avere belle tette. Ed io, maledetto, hai i tuoi occhi sovversivo perché non sono il tuo schiavo e ti brucia ciò che dico, che schifo. Ma lotto senza soccorsi e continuo nel mio viaggio prendendo la vita a morsi. Anche quando penso che sia dura, ci metto tutta quella grinda, che oh, e non dargli il tempo di una scusa, non mollare mai uomo, non mollare mai. Anche quando penso che sia dura, ci metto tutta quella grinda, che oh, e non dargli il tempo di una scusa, non mollare mai uomo, non mollare mai. Anche quando penso che sia dura, ci metto tutta quella grinda, hey.